Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Silvio Grassi e Molino Grassi. Terra, grano e farine. Di Valentina Furlanetto e Alessandra Scaglioni. La storia di oggi riguarda un'impresa di prima trasformazione agricola, cioè una realtà che lavora e trasforma i prodotti della terra, in questo caso per produrre farine e semole. Si tratta della storia di Molino Grassi. La zona è quella di Parma, l'anno di nascita il 1934. La generazione oggi alla guida dell'azienda è la terza, rappresentata da Silvio Grassi. È partito il nonno negli anni 30, prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi, subito dopo la guerra, sono entrati tre figli maschi che hanno continuato il mestiere del nonno, che nel frattempo è cambiato perché il mercato, il modo di fare farina si è trasformato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo entrati in un mercato non più protetto come durante il periodo fascista. È arrivata la politica comunitaria, che soprattutto sulle materie prime agricole i primi passi sono stati fatti proprio nel nostro settore. Quindi nel tempo chiaramente l'azienda si è adeguata a questo nuovo stile produttivo, modo produttivo. È cambiata la campagna e quindi è cambiata anche l'industria di prima trasformazione agricola, non solo sui cereali ma su tutto, pomodoro, uva, eccetera eccetera. Il lavoro di trasformazione della farina è cambiato molto in questi 80 anni ed è cambiato moltissimo il mondo che gli sta intorno. Noi siamo un'azienda di prima trasformazione agricola, monoingrediente, grano, quindi c'è la terra, c'è il lavoro dell'agricoltore, c'è il grano e dopo il grano c'è la farina, che è la materia prima, che sì, va anche sugli scaffali, ma è un mercato di nicchia per l'industria molitoria nazionale, la farina sullo scaffale. Sempre di più i nostri principali clienti sono l'industria di seconda trasformazione, quindi i panifici e i pastifici sostanzialmente. Il boom economico degli anni 60 crea nuovi cambiamenti nella società, nel costume e nell'azienda. La nostra seconda generazione dà il via alla produzione di semola, installando una delle prime linee di trasformazione del grano duro nel nord Italia. Erano tutte piccole aziende a carattere praticamente familiare. Credo che i dipendenti siano arrivati dopo negli anni 40, dopo la guerra, insomma negli anni 50, quando poi il boom economico si è trasferito anche nel nostro settore, con tutta una serie di nuovi consumi, di nuovi clienti, cioè anche perché diciamo che pane e pasta erano alimenti molte volte prodotti, erano alimenti domestici prodotti direttamente nelle cucine. Poi pian piano sono arrivati i pacchi di pasta, sono arrivati i prodotti da forno, è arrivato il signor Ferrero, cioè, e quindi è cambiato anche completamente il nostro modo di approcciarsi, i prodotti si sono industrializzati. La vita della famiglia e quella dell'azienda si intrecciano attraverso le generazioni e le trasformazioni. Io sono nato in una casetta, oggi è una casetta di fianco proprio all'azienda, nel 56. Ma cosa ricordo? Ricordo questi grandi sacchi, di juta, di cotone, pesavano 100 kg. C'erano dei dipendenti di mio padre che si divertivano a caricare me insieme a due sacchi da 100 kg sulle spalle. Allora il lavoro era fatica, però c'è sempre stato una grande, credo che la grande capacità della seconda generazione di mio padre e dei due zii sia stata quella di tenere unito un gruppo di dipendenti che hanno iniziato nel 45-46 e che sono andati in pensione quando io sono arrivato in azienda dopo 25-30 anni, e nello stesso tempo di avere saputo coinvolgere me, mio fratello e mio cugino, che abbiamo continuato questo mestiere non semplice, ma siamo riusciti a dargli una veste moderna. Abbiamo creato un'azienda un po' particolare che si dedica soprattutto alla produzione di alimenti di nicchia e ci permette poi di portare avanti progetti un po' innovativi rispetto a quello. Per noi il grano non è una commodities, per noi il grano è la materia prima per dare vita a progetti un pochettino innovativi. Oggi resta la veste tradizionale dell'azienda con la produzione per la vendita, ma soprattutto per le aziende di seconda trasformazione, cioè panifici artigianali e panificazione industriale e pastifici. Ma dalla fine degli anni 90 è nata un'attenzione per il biologico. Sì, sì, noi abbiamo iniziato all'inizio degli anni 90 a occuparci di agricoltura biologica. È stato un caso, è stato nella vita, poi ci sono anche questi aspetti dove uno non... siamo stati fra i primi in Italia, forse i primi, a occuparci di agricoltura biologica, che abbiamo seguito all'inizio distrattamente, poi pian piano con sempre maggior interesse, spinti soprattutto dall'esportazione, cioè dall'interesse dei paesi del nord Europa, quindi Germania, Francia, collaborando con i clienti, con aziende interessate ai nostri prodotti. Siamo pian piano cresciuti e dopo 20 anni, già diciamo dopo una decina d'anni, eravamo già leader europei nella trasformazione di questi prodotti. Oggi coprono circa il 50% della nostra capacità di trasformazione, più del 50% del nostro fatturato. Da lì poi nascono altre idee, nascono i rapporti con l'industria del baby food, quindi lavoriamo con tutte le principali industrie baby food in Europa. Spingere la produzione italiana biologica voleva dire incentivare gli agricoltori, quindi creare delle filiere vuol dire dotarsi di persone che vanno in giro sul campo. Abbiamo cambiato approccio nei confronti del mondo agricolo. L'agricoltore non è più il nostro fornitore, ma è un'azienda che collabora con noi per costruire un prodotto finito che poi va a finire sulle tavole. La dimensione dell'azienda del settore non è grande, ma il fatturato è in crescita e c'è una grande attenzione ai nuovi mercati. Dunque, noi quest'anno, l'anno scorso, insomma, 2011, siamo arrivati a 56 milioni di euro. Siamo nelle prime 10 aziende italiane per fatturato, perché comunque il mondo molitorio è un mondo ancora di aziende familiari, piccole. La quota di export è circa del 40%, copriamo il 20% delle esportazioni italiane di farine e semole, quindi di prodotti della trasformazione del grano. Abbiamo una rete vendita italiana di una ventina di agenti, copriamo praticamente solo il nord Italia, un pezzettino di centro, più 5 collaboratori sull'estero per ogni paese, area madrelingua, quindi chi segue l'inglese, lo spagnolo, il tedesco, il francese e un po' nei paesi dell'est Europa. Stiamo cercando di entrare in nuovi mercati, quello americano e quello cinese, soprattutto siamo piuttosto concentrati su queste due aree. Un laboratorio interno per lavorare sullo sviluppo dei prodotti e sulle questioni legate alla nutrizione. Qui lavorano 7 dei 45 dipendenti dell'azienda. La tecnologia di trasformazione è consolidata, è a disposizione di tutti, non ci sono grosse novità. La vera ricerca si fa sul campo e quindi abbiamo un agronomo, un agronomo che tiene i contatti con tutto il mondo della ricerca, con i vari istituti di cerealicoltura, non solo in Italia. Noi siamo esclusivisti abbiamo adattato, grazie diciamo un po' a questa esperienza, abbiamo adattato il miglior grano duro al mondo. Il miglior grano duro al mondo nasce nel deserto dell'Arizona, quindi con una genetica particolare impostata per quei climi, quindi assenza di piogge, siccità, eccetera. Abbiamo preso il seme e abbiamo cercato di adattarlo al clima italiano. Abbiamo iniziato più di 12 anni fa, dopo un paio di anni di sperimentazione abbiamo lanciato un prodotto che si chiama Kronos, che è il grano top quality al mondo che serve per fare tutte le paste di eccellenza. Adesso non sto a fare nomi perché non, comunque tutte le migliori paste di grano duro sul mercato hanno una percentuale di questo grano e noi l'abbiamo messo a disposizione di tutti, non solo dei grandi importatori, delle grandi aziende che avevano la possibilità di fare delle importazioni dirette dagli Stati Uniti, e oggi diciamo che è uno dei prodotti che sicuramente ci stanno dando una soddisfazione in questa nostra filosofia di nicchia che abbiamo sul mercato. In tempi di crisi anche i consumi di un prodotto di prima necessità si riducono, soprattutto perché si riducono gli sprechi. Ed in questo caso lo sguardo va ai mercati esteri. come abbiamo reagito noi? Abbiamo reagito cercando di occupare spazi nuovi, cercando di così, esplorare nuovi mercati, in particolar modo mercati esteri, perché comunque i consumi nazionali credo che, non so quando ripartiranno, ma anche dovessero ripartire, credo che la lezione di questi anni sia importante per rendere più educati i consumi alimentari. Credo che oggi la gente abbia imparato a consumare meglio. E anche per il futuro la direzione è quella del biologico, sia all'estero che in Italia. Ma tendenze per il futuro sicuramente cercare di... Ormai l'azienda è stata... il taglio è quello, il vestito è quello. Cerchiamo di continuare a dare valore a tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, in particolare cercando di trasferire quest'idea nei nuovi paesi, nei nuovi consumatori. A livello nazionale poi siamo partiti con questo progetto di farine biologiche che utilizzano un blend di grani antichi e grani moderni, dedicato in particolare in questa prima fase al mondo della ristorazione, così per sottolineare ancora una volta quella che è la nostra mission aziendale, quello proprio di crescere nel mondo del biologico e nel mondo di un'agricoltura sempre più attenta all'ambiente. Ma oltre al tema della conquista di nuovi mercati in Italia e all'estero, c'è un altro tema delicato, quello dell'equilibrio tra il margine, che nel settore è piuttosto ridotto, e la volatilità dei prezzi della materia prima piuttosto alto, negli ultimi anni anche del 10% in una settimana. E poi c'è un tema di grande interesse per tutte le aziende di questo settore e in definitiva per tutto il mondo del cibo, il rapporto tra mondo finanziario e mondo della produzione agricola. C'è speculazione, certo, c'è speculazione nel senso che non è una brutta parola speculazione, però il mondo finanziario ha capito che il mondo della produzione agricola è fragile, ha dei punti di fragilità che si prestano ad un uso della notizia che può portare a oscillazioni ampie del mercato, semplicemente usando dei numeri. Poi i fondamentali del mondo agricolo sono molto più pacati, non permetterebbero un livello di oscillazione dei prezzi così ampio. Però questo è un argomento, tra l'altro, che anche i potenti della terra hanno toccato, quello di cercare di dare delle regole sulla speculazione finanziaria sulle materie prime agricole, che sono fondamentali per, soprattutto per i paesi ancora in via di sviluppo, dove il pane ha un'incidenza sul portafoglio, sulla spesa quotidiana molto alta. Insomma, bisognerebbe avere delle regole. Su questo sono assolutamente antiliberista. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.